Nessun libro della Bibbia è popolare come il libro dei Salmi o Salterio. Esso formava l'innario del popolo ebraico. Infatti, i 4.000 musicisti stabiliti da Davide intonavano i salmi nel Tempio di Salomone, sotto l'esperta direzione di Asaf, di Eman e di Gedutuna. I superstiti della deportazione di Israele fecero di questo libro la loro raccolta di inni per il Secondo Tempio. Per questo i salmi sono un tesoro di preghiere e di confessioni per l'adorazione in pubblico ed in privato. La composizione del Libro dei Salmi abbraccia 700 anni, per questo motivo forniscono elementi utili per comprendere come Yahweh era adorato, in quanto contengono espressioni culturali relative alla dottrina. Gli autori dei Salmi sono Mosè, 90, Davide, in tutto 73, Salomone, 72, 127, Asaf, in tutto 12, figli di Core, in tutto 11, Eman l'Ezraita 88, Etan l'Ezraita 89. Abbiamo diverse categorie di salmi. Vi sono i cantici, come ad esempio il Salmo 30, quelli propriamente chiamati salmi, come ad esempio il Salmo 3, vi sono gli inni, come ad esempio il Salmo 16, vi sono i salmi di istruzioni, come ad esempio il Salmo 32, e i salmi dei lamenti, come ad esempio il Salmo 7. Il carattere dei salmi. Salmi di pentimento 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Salmi alleluia perché vi predomina l'adorazione 113, 118, 136. I canti dei pellegrinaggi dal 120 al 134. Salmi alfabetici 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145, che nell'originale cominciavano con la lettera ebraica, mentre le altre lettere alfabetiche erano poste all'inizio di ciascuna strofa a seguire. Salmi messianici 2, 8, 16, 22, 23, 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 87, 89, 97, 102, 110, 118. Il libro dei Salmi mostra con segni evidenti di essere diviso in cinque parti, probabilmente a imitazione del Pentateuco. I giudei dividevano il Salterio in cinque libri. Libro primo, 1:41. Libro 2, 42-72. Libro 3, 73-89. Libro 4, 90-106. Libro 5, 107-150. Questi sono dati storici, al di là dei quali risalta il valore molto più ampio dei salmi. A. Innanzitutto sono delle preghiere, come troviamo scritto nel Salmo 72, 20. Qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Isai. B. Su 283 passi del Nuovo Testamento che citano l'Antico Testamento, 116 sono tratti dai Salmi. Questo significa che sono quasi la metà del totale. C. Dopo il libro di Isaia, quello dei Salmi è il libro dell'Antico Testamento che troviamo citato più spesso nel Nuovo Testamento. D. Gesù amava profondamente i Salmi. Anche in croce si è servito del loro linguaggio. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Salmo 31:5. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Salmo 22 e. I discepoli, nei loro scritti, hanno spesso fatto riferimento ad essi. Salmo 35, 19. Mi hanno odiato senza motivo. Troviamo questa citazione in Giovanni 15 e 25. Salmo 109, 8. Il suo incarico lo prenda un altro. Fanno questa citazione gli apostoli in Atti 1 e 20. Il Salmo 69, uno dei salmi imprecatori, era molto conosciuto. V4. Mi hanno odiato senza motivo. E, citato in Giovanni 15 e 25, V9, lo zelo della tua casa mi consuma. E, citato in Giovanni 2, 17 e Romani 15, 3 V 22 e 23, la loro mensa sia una trappola. Lo cita Paolo in Romani 11, 9, 10. Versetto 25. La sua dimora diventi deserta. Lo citano gli apostoli in Atti 1 e 20. F. I salmi sostennero i primi martiri che suggellarono col sangue la testimonianza della loro fede. G. Nel servizio religioso delle chiese cristiane i salmi ebbero un posto notevole. H. Prima di morire, Agostino fece mettere i 7 salmi penitenziari, quelli che hanno a che fare con la confessione di peccato, vicino al suo letto in modo da poterli leggere. 1, 4, 3, 6, 3, 2, 3, 8, 5, 1, 1, 0, 2, 1, 3, 0. E William Glaston disse che tutte le meraviglie della civiltà è una curiosità. Il capitolo più lungo della Bibbia è il Salmo 119. Il capitolo più breve è il Salmo 118. Il versetto centrale della Bibbia è il versetto 8 del Salmo 118. E, meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Prendiamo in esame il Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge. Medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Il Salmo si divide in 3 parti, parla degli empi, del giusto e di 2 vie. Nei primi versetti sono definite le caratteristiche del giusto, egli sta lontano dalle cattive compagnie. Sono 3 le espressioni con le quali il salmista esprime la gioia del giusto o del beato, che non cammina, che non si ferma, che non si siede, in compagnia dei peccatori o schernitori. Questo significa che l'influenza casuale degli empi è inevitabile, ma con determinazione il giusto non si lascia contaminare dal loro comportamento malvagio. Positivamente, il giusto trova costante piacere nello studio e nell'osservanza della legge. L'espressione giorno e notte non è da intendersi che deve leggere tutto il giorno, ma che la parola di Dio è per lui un continuo oggetto di riflessione per comprendere come comportarsi. Il benessere del beato è paragonato ad un albero fruttifero vicino ad una sorgente di acqua, un paragone comune nell'Oriente dove alberi e acqua sono un bene prezioso. Totalmente diverso dall'uomo beato è l'empio, cioè il non pio, colui che non cammina rettamente. Per lui, dopo aver vissuto una vita senza meta, inconsistente e demotivata, è riservato il giudizio. Infatti, la pula, cioè l'involucro che racchiude il chicco di grano, è priva di valore e viene soffiata via dal vento durante la vagliatura. Non vi è nulla di più inutile e senza valore. E non solo. Egli, anche se lo vorrà, non si troverà a proprio agio con coloro che temono Dio, per cui come uno scarafaggio cercherà le tenebre, il luogo che avrà scelto. La sua fine sarà la rovina, cioè le pene eterne. Purtroppo questa è una realtà alla quale ho assistito più volte. Ho conosciuto persone che erano veramente interessate al Vangelo, provavano un'immensa gioia nello stare con i figli di Dio. Ma poi la loro condotta li portava su sentieri che andavano nettamente all'opposto di quelli di Dio. Dovevano fare una scelta e infine hanno scelto o amato le tenebre più della luce. Ho presente delle brave persone con un carattere invidiabile, con una umanità rara, ma di fronte alla chiamata di Gesù Cristo si sono rovinosamente tirati indietro a loro perdizione. E una triste realtà, purtroppo ricorrente. Sono felice, estremamente felice, che vi piaccia ascoltare l'Evangelo, gloria a Dio. Ma bisogna, di fronte alla chiamata di Cristo, fare una scelta. È molto più comodo rimanere così, forse, nell'anonimato, e godere dei piaceri che offre la parola di Dio, ma il nostro Dio conosce i cuori. Il Salmo 1 afferma che l'Eterno conosce la via dei giusti, quanto più vede colui che per indifferenza non sceglie Cristo quale padrone e salvatore. I nostri inviti a scegliere Cristo potranno sembrare ossessivi, ma di fronte ad una vita vissuta nella condanna per l'eternità non bisogna essere teneri. Più grande è il pericolo più grande deve essere l'invito a scamparlo. Che l'Eterno vi dia sempre più nitida la coscienza del grande dono che ci ha elargito. Un dono, dobbiamo rimarcarlo, che non si possiede solo nel futuro, ma un dono che si inizia a possedere fin da ora. Perché sta scritto che nei giorni di difficoltà chi segue una vita giusta non subirà la situazione come tutti coloro che non camminano rettamente, ma sarà vincitore sulle circostanze. Cosa si intende per vincitore? Che non passerà le prove come tutti gli altri esseri umani? No, ma che nel dolore e nella distretta sa che tutto coopera per il suo bene, perciò non è una situazione di disperazione, ma un periodo fecondo nel quale le virtù cristiane, quali la pazienza e la sopportazione, vengono esercitate. Questa non è un atteggiamento filosofico, tanto per dire, ma un comportamento che produce un benessere nella vita. Un tale benessere da trasmetterlo agli altri. Come ha detto qualcuno, il cristianesimo è una sana malattia, dalla quale tutti dovrebbero essere contagiati. In merito all'immagine delle foglie che non si appassiscono, ci è molto da riflettere, anche perché di recente in televisione è stato ripetuto che le persone appassite, cioè demotivate o depresse, sono molte, un numero che si avvicina a 2 milioni. Era presente uno psicologo rinomato, il quale, con i suoi saggi consigli, indagava la psiche umana e invitava le persone ad avere il giusto atteggiamento verso la vita. Alcune persone hanno telefonato per avere utili aiuti, ma, con tristezza, ho notato che nessuno ha posto, oltre a tutti i rimedi proposti, come mezzo di soluzione Gesù Cristo. Non si tratta di un ragionamento religioso verso il quale molti a giusta ragione sono avversi, ma si tratta di un rapporto di intima comunione con Cristo, un rapporto dal quale scaturisce e è favorita la serenità d'animo. Quando Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore». E voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero, intendeva proprio dare agli uomini quello di cui hanno bisogno. Gesù si è indirizzato a tutti coloro che hanno una qualsiasi sofferenza, per dare loro il riposo del quale hanno bisogno. Il Salmo 1 mette in evidenza la prosperità di chi si confida in Cristo Gesù, un benessere testimoniato da milioni di persone che, demotivate, alcolizzate, iraconde, hanno trovato in Cristo visioni e nuove energie per vivere bene, per lavorare nel regno di Dio, da mendicanti che con mille astuzie richiamano l'attenzione dei passanti, dedicano una vita al servizio degli altri, mentre gli empi, cioè coloro che hanno un cammino che non corrisponde al volere di Dio, spesso restano schiacciati dalla calamità emotiva, come il complesso di inferiorità, cioè il senso della propria inadeguatezza come persona. Un argomento, questo, poco affrontato, ma quando leggiamo che il giusto è come un albero piantato presso i rivi d'acqua, il riferimento è prima di tutto all'immagine interna che l'uomo ha di sé. Perdonato da Dio, valorizzato e accettato da Gesù Cristo, anche se avesse rinnegato Cristo come l'apostolo Pietro, trova nel totale perdono la profonda riconoscenza che gli permette di percorrere vittorioso la strada dell'esistenza umana sulle circostanze negative. Mediante l'insegnamento di Cristo, il credente imparerà ad usare le cose e ad amare le persone, non ad amare le cose e usare le persone. Non fuggire davanti alla luce, entra in comunione con la persona di Cristo, perché la via dei giusti è gradita a Dio, ma la via degli empi porta alla rovina. Questo è ciò che urla il primo salmo della Bibbia, un urlo da parte di chi ti ama. Personalmente, aggiungo a questo atto di amore la mia calorosa esortazione: poni fede in Cristo, ama la verità. Ne vale la pena, io l'ho fatto. Gennaio 2013. Ellero,